Spezia. Piogge intense nella notte a Roma, traffico nel caos, ferita una donna per la caduta di un albero, crolla una parte del muro di Porta Pia, esonda il fiume Almone, allerta in parte del sud. Polemica sul sindaco della capitale, intanto per alcune multe prese con la sua panda per l'accesso alla zona a traffico limitato. La Commissione europea investigherà sul suo presidente Jean-Claude Juncker, sotto accusa per gli accordi tra il Lussemburgo e oltre 300 aziende sull'imposizione fiscale. Si alza il livello della protesta degli statali per la manovra, 50.000 in piazza domani, dicono Padoan, sulla legge di stabilità. Il rinvio dei giudizi dell'Europa è un fatto tecnico. Sulla legge elettorale non ci fermeremo, conferma il governo Renzi. La settimana prossima si parte in Senato, avanti anche da soli. È uscito questa mattina The Endless River, è il nuovo album dei Pink Floyd che ha già frantumato il record di preordini su Amazon. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, se volete le potete commentare al 349-238-6666 via SMS durante la trasmissione oppure scrivendoci a effettogiorno@radio24.it. In apertura ancora una volta i danni dalle piogge intense e lo stato di allerta che stanno investendo il centro e il sud Italia. Ieri le scuole a Roma, come sapete, sono state chiuse, ma i disagi si sono verificati oggi. In diretta Francesco De Remigis, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Dicevi bene, i disagi si sono verificati oggi, questa mattina, proprio in concomitanza con la riapertura delle scuole, visto che molti cittadini hanno preso l'auto per accompagnare i figli nelle classi e questo ha creato particolare disagio in molte strade della capitale, soprattutto perché dopo le piogge che sono cadute nella notte fino a questa mattina all'alba e poi ancora fino alle 9, alle 10 di questa mattina a seconda delle aree della città, il traffico era sostanzialmente bloccato anche per i pedoni, visto che marciapiedi e strade erano sfiorati dall'acqua e c'erano come dei fiumi in alcune zone della città. Poi la situazione è andata via via migliorando e si sono registrati alcuni incidenti, fortunatamente non gravi. È caduto un albero in una zona della città che ha ferito lievemente una donna, è esondato il fiume Almone sull'Appia, creando qualche danno ai negozi circostanti, agli allagamenti, cose di questo genere, ma fortunatamente nulla di grave. Il Tevere e l'Aniene sono gli altri due fiumi, sono ancora sotto controllo, ma la situazione possiamo dire che sta tornando verso una graduale normalità. È tutto. Grazie a Francesco De Remigis per questi aggiornamenti. Tra l'altro sono crollate parti del muro di Porta Pia a Roma. Saluto Stella Marino, che è assessore all'ambiente con delega alla protezione civile del Comune di Roma. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Allora, immagino ci confermerà che la situazione sta tornando alla normalità, insomma. Sì, assolutamente sì, sia da un punto di vista delle previsioni meteo, come ci aveva confermato ieri, anche ieri sera, il centro regionale che dà l'allerta meteo, che aveva abbassato per la mattinata di oggi il grado di criticità a codice arancione. Sta rientrando alla normalità, abbiamo avuto ancora le piogge stanotte nelle prime ore della mattinata, quindi durante la fase di traffico anche più acuto della città, e quindi ci sono stati un po' di rallentamenti perché ci sono stati interventi poi di sostruzione, di rimozione dell'acqua in alcune allagamenti stradali, diciamo. Senta, non è che avete sbagliato a chiudere le scuole ieri? Ma io l'ho ripetuto più volte, sia ieri che stamattina, a consuntivo posso dire che la scelta di chiudere le scuole ieri è risultata opportuna, perché ieri ci sono stati picchi di concentrazione e intensità, fra l'altro durante le ore sia di ingresso a scuola mattutine e di uscita dalle scuole nel pomeriggio, e quindi è stata opportuna. Fra l'altro il fatto di avere molto meno traffico e flusso veicolare sulle strade ha permesso gli interventi di tutte le squadre, dalle nostre protezioni civili ai vigili del fuoco, molto più veloci, e questo ovviamente ha aiutato. Fra l'altro ricordo che la perturbazione si sta spostando verso il basso, oggi è sulle province del sud del Lazio, e infatti stamattina sia la provincia di Frosinone che di Latina hanno le scuole chiuse, quindi evidentemente era una necessità visto il grado di intensità. Grazie Estela Marino, assessore comunale all'ambiente con delega alla protezione civile, che già ci accennava al resto del paese, insomma al di fuori di Roma. Sentiamo che cosa succede. Il maltempo non ha intenzione di allentare la morsa sull'Italia, la situazione rimane difficile in molte regioni e se la capitale sembra avere retto bene alle violente piogge delle ultime ore, l'allerta si sta spostando decisamente verso le regioni meridionali. Sentiamo Luigi Latini del Centro Epson Meteo. Questa perturbazione nelle prossime ore, nel corso del pomeriggio, soprattutto della serata, si sposterà sui Balcani e infatti le zone a rischio saranno poi Puglia, Calabria e Sicilia, non più il centro Italia. La situazione poi migliorerà ancora sabato e domenica. Nel Golfo di Napoli, collegamenti via mare a singhiozzo a causa del vento forte e del mare agitato. Molti aliscafi in partenza per Capri sono stati sospesi. Al di sotto delle previsioni, invece, la punta massima di acqua alta registrata a Venezia, che si è fermata poco sotto il metro e che comunque ha allagato la parte più bassa della città, a partire da Piazza San Marco. Una tregua apparente nel weekend. Dall'inizio della prossima settimana tornano le piogge al nord. Federico Fumagalli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E notizia di un istante fa: il PM della Procura di Massa Carrara ha disposto il sequestro dell'argine, parte del quale è crollato a Carrara per la piena del fiume Carrione la mattina del 5 novembre scorso. Come ricorderete, abbiamo sentito il sindaco l'altro ieri, il quale ci ha raccontato che su quell'argine erano stati fatti i lavori proprio nel 2003, quindi una decina di anni fa. Vedremo come evolverà questa vicenda. Mentre Roma però si trova in questa condizione, il sindaco Marino viene colpito da una nuova polemica che riguarda una serie di multe. Tutta colpa della panda rossa che lui, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, usa pure poco, preferendole, come si sa, la bicicletta. Il primo grattacapo è arrivato perché l'auto è rimasta in sosta per mesi nel parcheggio riservato del Senato, anche se Marino non era più senatore. Solo dopo le proteste di alcuni deputati e consiglieri è stata spostata. Ora, sempre a bordo della panda rossa, il sindaco di Roma sarebbe entrato in centro storico con un permesso di zona traffico limitato scaduto. Due multe sono state pagate, per otto invece l'accusa di non averle pagate, infrazioni da 80 euro ciascuna, per un totale di 640 euro. Dai tabulati risulta inoltre che su queste otto multe non pagate è inserito un codice che si usa se un cittadino fa ricorso al prefetto o al giudice di pace. E qui scatta il problema, visto che secondo il testo unico enti locali, un primo cittadino non può avere una lite pendente col comune che guida, pena la sua decadenza. Ma cosa è successo poi? Secondo un'interrogazione del senatore del Nuovo Centrodestra, Andrea Augello, le multe sono state bloccate d'ufficio dall'amministrazione comunale, sanando i due mesi di mancato rinnovo del permesso come se si trattasse di un errore del comune. Marino nega e spiega che tutto verrà chiarito attraverso gli uffici. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo alle vicende europee. Il Lussemburgo rivendica la piena regolarità degli accordi fiscali che ha con centinaia di imprese, rifiuta di farsi mettere sul banco degli imputati. La Commissione investigherà, ha detto il capogruppo del PPE, Weber, e Juncker ha assicurato la sua imparzialità. Il Lussemburgo è pronto a rimettere mano a tutta la materia, ma quello che vale per noi deve valere per tutti. A grandi linee questo è il pensiero del ministro delle finanze del Granducato, perché è vero che la situazione di società che pagano poco o niente al fisco è insostenibile anche riguardo ai nostri contribuenti, ha specificato il ministro, ma il Lussemburgo non è l'unico Stato europeo ad applicare accordi fiscali. Forse quelli del Granducato saranno più vantaggiosi, ma anche Olanda e Gran Bretagna utilizzano questa leva. Ad Amsterdam non vengono tassate plusvalenze e dividendi. A Londra le tasse societarie sono state portate dal 28 al 21%. Irlanda e Lussemburgo sono già sotto la lente di Bruxelles per sospetti aiuti di Stato a Apple e Fiat, aiuti che si sarebbero tradotti proprio in agevolazioni fiscali. Nel Granducato multinazionali come Procter & Gamble, Pepsi, Gazprom, Amazon, Ikea, ma anche banche, tra cui le italiane Unicredit e Intesa, riescono a pagare anche solo l'1% di tasse attraverso strutture finanziarie complesse che spesso prevedono prestiti infragruppo. Una situazione difficile da sostenere, soprattutto adesso che Juncker, premier lussemburghese per 18 anni, è a capo della commissione che chiede tagli di bilancio e rispetto dei conti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questa vicenda e dei suoi riflessi politici torneremo a parlare più avanti in effetto giorno. Intanto prosegue la dialettica tra la Commissione europea e l'Italia sul tema della legge di stabilità e prosegue la dialettica anche con i sindacati. Contratti bloccati da 6 anni, niente opzione del TFR in busta paga. Le categorie del pubblico impiego alzano la voce con CGIL e CISL e UIL che si dicono pronte allo sciopero prima della ratifica della legge di stabilità se il governo non stanzierà le risorse necessarie. Domani intanto gli statali manifesteranno nella capitale e saremo in 50.000, annunciano i sindacati. Dal ministero di Palazzo Vidoni tuttavia replicano: nel pubblico impiego c'è una garanzia anche rispetto al posto di lavoro che nel privato non c'è. Guai a pensare che si possa fare del mondo del lavoro il terreno dello scontro, l'appello intanto oggi del presidente del Consiglio Renzi. Quanto alla legge di stabilità, prosegue il suo cammino alla Camera. Oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Il voto sulle proposte di modifica inizierà giovedì 13. Sul fronte europeo, il rinvio a fine mese del giudizio sulla manovra da parte della Commissione è un fatto tecnico, spiega il ministro dell'Economia Padoan, dettato dal fatto banale che c'è stato un cambio di guardia alla Commissione e i nuovi commissari hanno bisogno di più tempo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto in queste ore il dibattito politico si concentra sulla legge elettorale. In diretta Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno. A tarda sera Matteo Renzi ribadisce, Simone, l'idea già lanciata dal ministro delle riforme Maria Elena Boschi. Sulla legge elettorale si va avanti, il PD non si fermerà per le beghe interne a Forza Italia e la prossima settimana inizierà l'esame al Senato. Ma sentiamo cosa ha detto proprio il Premier. Il patto del Nazareno non può essere fermato e rallentato perché qualcuno ha paura di mandare avanti le riforme. Se c'è chi dice dobbiamo bloccare, fermare, prendere tempo, sospendere, aspettare ancora, se qualcuno pensa di fare il temporeggiatore, noi diciamo che andiamo avanti anche da soli. E stamattina è proprio la Boschi a tirare dritta, andremo avanti con gli altri partiti, ci sono Movimento 5 Stelle, SEL e Lega, siamo molto vicini ad un accordo sulla legge elettorale, abbiamo capilista scelti dal partito e preferenze per gli altri, manca qualcosa sulle percentuali. Se Forza Italia dovesse tirarsi indietro, noi dovremo andare avanti con gli altri. Replica Paolo Romani, capogruppo di Forza Italia al Senato, aspettiamo che la legge venga calendarizzata, saremo pronti, affronteremo il confronto. La legge è ferma al Senato non per colpa nostra, ma le parole della Boschi fanno il paio con quanto successo alla Camera sulla Consulta, dove la situazione si è sbloccata proprio grazie ad un accordo PD Movimento 5 Stelle. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Si celebrano domenica i 25 anni dalla caduta del muro di Berlino. È là a Berlino la nostra inviata Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Qui a Berlino sta riscoprendo in questi giorni il percorso del muro seguendo i palloncini luminosi e sta cercando 25 anni dopo quella storica caduta le tracce di un confine che resiste ormai quasi solo all'ombra della cosiddetta ostalgia. La tuta tedesca che fa dell'est il prefisso della nuova nostalgia. La città si prepara, come dicevi, alle grandi cerimonie di domenica 9 novembre e si prepara con la voglia di festeggiare sulle note dell'inno alla gioia di Beethoven alla porta di Brandeburgo quella riunificazione che ha invertito il corso della storia, ma quello sarà anche il quarto giorno di uno sciopero del trasporto pubblico che sta creando enormi disagi, un sintomo di difficoltà che anche qui nel paese locomotiva dell'Unione Europea si sentono e che in celebrazioni e ricordi trasformano in spettro anche un segnale politico significativo come l'avanzata della Linke, il partito che ha raccolto l'eredità dei comunisti dell'Est nel land della Turingia, un dato che ha alimentato il dibattito sulla ostalgia, appunto il rimpianto di un certo passato definito però cancelliera Merkel che pur nella DDA ha vissuto e che quindi si ritrova 25 anni dopo a ripetere che la DDA fu solo uno stato ingiusto. In questo clima e sotto un sole pieno Berlino appunto comincia a festeggiare se stessa e lo farà soprattutto appunto domenica quando qui ritorneranno i protagonisti dell'89 da Gorbaciov che nel pomeriggio sarà al checkpoint Charlie a Kohl e tutti insieme ai vertici di quell'Unione Europea costruita anche con le pietre del muro caduto domenica al tramonto faranno volare questi 8.000 palloncini luminosi per cancellare di nuovo il confine, simbolo della guerra fredda. Simone. Grazie alla nostra Raffaella Calandra, inviata a Berlino subito dopo la caduta del muro di Berlino. 6 mesi dopo, come ricorderete, ci fu a Berlino un grandissimo concerto, un The Wall dei Pink Floyd, appunto live da Berlino. Ebbene, forse sarà un caso, ma oggi esce il nuovo disco del gruppo. L'annuncio dell'uscita di un nuovo album dei Pink Floyd era arrivato il 5 luglio scorso con un tweet di Polly Sampson, la moglie di David Gilmour, e oggi finalmente sbarca su iTunes The Endless River, 18 brani, 21 nell'edizione deluxe, che rappresentano un po' il canto del cigno di Richard Wright, il geniale tastierista che ha dato un contributo fondamentale a quel suono unico ed inconfondibile dei Pink Floyd e che è scomparso nel 2008 a 65 anni. The Endless River, che prima ancora dell'uscita fisica prevista per lunedì 10 novembre nei negozi ha polverizzato tutti i record di prevendita, non contiene canzoni nuove, ma musiche e brani che erano rimasti negli archivi durante la registrazione avvenuta 20 anni fa dell'ultimo disco intitolato The Division Bell. The Endless River è per lo più strumentale, ad eccezione del brano finale Louder Than Words, una ballad scritta da Polly Sampson, la moglie del cantante e chitarrista David Gilmour, e di Talking Hawking, cui presta la voce Stephen Hawking, il fisico dell'Università di Cambridge, costretto da una sclerosi amiotrofica a parlare attraverso un computer. La maggior parte delle musiche sono state scritte dal tastierista Richard Wright. Questa è l'ultima occasione per sentirlo suonare insieme a noi, ha commentato David Gilmour, il quale ha annunciato che questo disco sarà ufficialmente l'ultimo per la storica band. Non ha apprezzato invece l'uscita del nuovo album l'ex leader del gruppo, il bassista e cantante Roger Waters, che ha lasciato i Pink Floyd nel 1985 e che sul suo profilo Facebook ci ha tenuto a sottolineare di non aver nulla a che fare con The Endless River. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Piogge intense nella notte a Roma, traffico in difficoltà, ferita una donna per la caduta di un albero e crolla una parte del muro di Porta Pia, allerta in parte del sud. Polemica sul sindaco della capitale, intanto per alcune multe prese con la sua panda per l'accesso alla zona a traffico limitato. Si alza il livello della protesta degli statali per la manovra, 50.000 in piazza domani, dicono Padoan, il rinvio dei giudizi dell'Europa è un fatto tecnico. Sulla legge elettorale non ci fermeremo, conferma il governo. Deborah Serracchiani, vice segretaria del PD, pochi istanti fa ha detto: se Berlusconi non ci sta andiamo avanti e troviamo una maggioranza in Parlamento. David Sassoli, eurodeputato del Partito è caduta la linea con David Sassoli, eurodeputato del Partito Democratico e del Partito Socialista Europeo, naturalmente vicepresidente del Parlamento Europeo. Con lui parleremo appena naturalmente riusciremo a raggiungerlo di nuovo, parleremo della vicenda di Jean-Claude Juncker, il presidente della Commissione Europea. Come sapete è sotto pressione per una serie di accordi raggiunti a Lussemburgo con oltre 300 aziende, secondo quello che hanno raccontato una serie di organi di stampa internazionale. Siamo dunque con Sassoli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, Presidente appena insediato è già una grana, dovrà venire a riferire all'Europarlamento, secondo lei Sassoli, lo chiamerete? È una cosa tutta da chiarire, lui deve sentire l'obbligo di chiarirla. Accordi segreti, fiscalità di vantaggio, addirittura che mettono in pericolo le normali relazioni fra paesi della stessa Unione Europea. Beh, tutto questo deve essere molto chiarito, perché siamo in presenza di atteggiamenti che violano la normale logica della concorrenza. Secondo lei, guardandolo un po' più in prospettiva, una vicenda di questo genere può mettere a rischio la stessa posizione di Juncker? Lui deve sentire questo impegno a chiarire tutta questa vicenda. Ha avuto responsabilità di primissimo piano per tanti anni nel suo paese, il piccolo Lussemburgo, e naturalmente trovandosi oggi nella condizione di Presidente della Commissione Europea, partita da pochi giorni, questa ombra su questo tipo di atteggiamenti, di violazioni, che potrebbero prevedere anche delle violazioni, lui deve assolutamente chiarirle, deve essere tutto più trasparente. Ecco. A proposito di trasparenza, il capogruppo del PPE Weber dice la Commissione dovrà investigare, Juncker ha già assicurato che nel momento nel quale investigherà lui sarà fuori dai giochi, starà in silenzio. Non le sembra un po' strana come modalità? Cioè, non dovrebbe esserci una sorta di organismo indipendente che investighi su questo? Ma nel momento in cui lui chiarirà la questione, naturalmente poi potrebbero scattare anche delle indagini indipendenti. Però lui non può stare zitto, ecco, deve chiarire bene la sua posizione e quella anche del suo paese nel momento in cui lui aveva delle importantissime responsabilità. Far partire una commissione, una presidenza che ha avuto un sostegno così largo, che ha avuto anche un riscontro elettorale per la prima volta con queste ombre, beh, questo naturalmente diventerebbe un po' insopportabile. Le ribadisco brevemente la domanda che ho fatto all'inizio: lo chiamerete in Europarlamento a chiarire oppure no? Ma questo non è da escludere, visto che nel momento in cui lui si è insediato è venuto in Parlamento ed è anche interrogato su tante vicende, queste sono emerse in questi giorni, non è da escludere che l'Europarlamento decida anche questa modalità. Però ripeto, non può stare zitto, è chiarire a prescindere, perché un'inchiesta giornalistica di questo livello, con delle accuse molto precise, molto dettagliate, hanno bisogno di essere chiarite a prescindere, diciamo, dal fatto se verrà chiamato dal Parlamento, se altri organismi europei ci accenderanno i riflettori. È lui che deve sentire questa responsabilità. Grazie a David Sassoli, europarlamentare, vicepresidente del Parlamento europeo, per essere stato con noi. Saluto Alberto Negri del Sole 24 Ore, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, con te vogliamo parlare di Libia, perché c'è in realtà una situazione molto confusa, come dire, che si è palesata ieri. Vuoi aiutare i nostri ascoltatori e noi a capire che cosa sta succedendo in quel paese che per noi è strategico? La notizia di ieri è questa: la Corte Suprema di Tripoli ha annullato le elezioni del 25 giugno scorso. Questo significa che il paese si sta spaccando in due tra l'est della Cirenaica e la Tripolitania a ovest. Perché si sta spaccando in due? Perché il governo che era uscito dalle elezioni praticamente è scappato da Tripoli dopo la lotta tra le milizie nella capitale libica, è andato in esilio a Tobruk e lì ha formato il nuovo Parlamento. Questo governo che si trova a Tobruk è riconosciuto dalla comunità internazionale, però non ha nessun controllo sulla Tripolitania, dove si è costituito un altro governo basato sul Parlamento precedente, che era il Congresso Nazionale Libico. Chi comanda? Allora, in Tripolitania è un'alleanza fra gli islamici dei Fratelli Musulmani e le milizie della città di Misurata. In Cirenaica, come dicevamo, quel governo non ha nessun controllo e si appoggia sulla protezione internazionale dell'Egitto e sulle milizie del generale Haftar, Califa Haftar, in lotta con gli islamisti. Allora, in Alberto, poche parole, allora, il paese è spaccato. Allora Alberto, paese spaccato, dove sono i nostri interessi e quali sono le nostre difficoltà, intendo dell'Italia? Allora, gli interessi dell'Italia prevalenti sono nella Tripolitania, nella parte ovest, dove ci sarebbe appunto questo governo che si è costituito in contrapposizione a quello uscito dalle elezioni. Lì abbiamo i terminali del gas di Mellita e Polleni, abbiamo i pozzi petroliferi, ma abbiamo anche buona parte delle nostre attività economiche. Quindi il nostro governo, il governo italiano, dovrà trovare un difficile bilanciamento tra gli interessi nostri che sta in Tripolitania e quel legittimo governo di Tobruk, che però non ha alcun controllo sulla situazione. E questo è un po' il solito dilemma libico. Una notazione però: spesso leggo sulle agenzie che si dice che il governo della Tripolitania è un governo di islamisti, eccetera. Certo, ci sono i Fratelli Musulmani, certamente ci sono anche altre forze, però è un governo che in questo momento comunque mantiene l'ordine. Dall'altra parte, il governo riconosciuto internazionalmente non ha nessuna credibilità, proprio perché è nato da una situazione spuria. Le elezioni sì sono state fatte, ma in quelle elezioni ha votato meno del 25% della popolazione. Quindi la soluzione sarebbe in realtà riconvocare nuove elezioni e trovare un governo di unità nazionale. Grazie, grazie ad Alberto Negri per questi chiarimenti e questi aggiornamenti, sempre prezioso. Saluto Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega Nord alla Camera dei Deputati. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. L'abbiamo chiamata per parlare, anche se il suo segretario dice alla Lega non frega assolutamente niente della legge elettorale, l'abbiamo chiamata in realtà per capire se a fronte di un Partito Democratico che dice, insomma, Forza Italia potrebbe non starci, noi andiamo avanti da soli, potreste essere voi, come dire, la stampella di un accordo sulla legge elettorale. No, guardi, a noi non interessa fare da stampella né tantomeno dialogare con Renzi sulla legge elettorale. Evidentemente il Presidente del Consiglio si è totalmente estraneato dai problemi che sta vivendo il Paese, basti vedere la legge di stabilità, e l'unico punto di appoggio del dialogo che vuole cercare è quella su come spartirsi meglio le poltrone, perché questa nella sostanza anche l'Italicum uscito dalla Camera. Noi siamo disponibili a discutere, ovviamente, se vuole parlare di modifica alla legge di stabilità, come i 100 milioni tagliati ai disabili, come il blocco degli stipendi per le forze di polizia e le forze dell'ordine, come l'esigenza emersa anche in questa legge di stabilità di un vero taglio delle tasse, non come quello che ha fatto Renzi, con addirittura un aumento dell'IRAP per le imprese retroattiva. Senta, ho capito il ragionamento. Detto ciò, insomma, prima o poi è chiaro che no, non lo reputate un'urgenza la legge elettorale, probabilmente anche gran parte degli italiani non la reputa tale. E, detto ciò, è una cosa che va fatta, evidentemente. Se vi venisse offerto un dialogo, siete disposti ad accettarlo e a ragionarci sopra, oppure dite, cioè, non importa a nessuno e quindi non lo facciamo? Noi dialogo vedremo nell'aula cosa presentano e là i gruppi parlamentari decideranno liberamente come votare, ma ripeto, non andiamo a fare attrezzative, colloqui, incontri in streaming o in qualche stanza segreta del Nazareno per la legge elettorale, questo lo escludiamo a priori. Se Renzi ci vuole proporre qualcosa di concreto, siamo disponibili al dialogo. Il problema è che ho paura che dopo gli 80 euro di concreto abbia ben poco il Presidente del Consiglio. Noi l'abbiamo più volte sfidato, per esempio, a discutere di lavoro veramente, come per esempio abolire la riforma delle pensioni Fornero e favorire il cambio generazionale, come sulle tasse con la flat tax. Abbiamo presentato degli emendamenti alla legge elettorale ed è inaccettabile che in un momento nel quale abbiamo il 44% di disoccupazione giovanile, il 13% di disoccupazione generale con 1000 nuovi disoccupati al giorno, imprese che chiudono, imprenditori che si suicidano, il Presidente del Consiglio l'unica porta che apre è quello sulla legge elettorale. Insomma, questo ci lascia molto perplessi. Grazie, Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega Nord alla Camera dei Deputati. Un'ultima notizia prima di andare alla pausa. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati dopo l'esposto presentato dalla famiglia di Stefano Cucchi nei confronti del medico legale Paolo Arbarello a proposito della perizia del processo di primo grado. Quindi in parte la vicenda si riapre. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Caso Cucchi, la Procura di Roma apre un fascicolo dopo l'esposto della famiglia contro il perito. Pioggia intensa a Roma, danni e problemi, ma situazione verso la normalità, la perturbazione si sposta verso sud. La Commissione europea investigherà sul suo presidente Juncker nel mirino per gli accordi tra il Lussemburgo e oltre 300 aziende sull'imposizione fiscale. Gli statali al governo, domani saremo 50.000 in piazza e si prepara lo sciopero. La borsa. Borse in diretta. Giornata di cali, meno 1,20 sul FTSE MIB, meno 1,12% sul FTSE OSHARE, mentre vanno lievemente meglio le altre piazze finanziarie europee, anche se anche qua dominano i segni meno, meno 0,40% Francoforte, meno 0,55% Parigi, Londra invece in guadagno dello 0,7%. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Come mai vanno male i mercati e va male Milano? Ma le borse europee, soprattutto Milano, risentono della debolezza del comparto bancario al termine di una mattinata che è stata molto volatile in attesa dell'importante dato sull'occupazione americana in calendario alle 14.30. A Piazza Affari, fra le blue chip, sotto pressione soprattutto le popolari, meno 3,5 Banco Popolare, meno 3,4 Viper, meno 2,8 la Popolare di Milano. Sono giù anche le banche principali, comunque Unicredit fa meno 3%, Intesa meno 2,8%. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Corre, Isabella Tasso, e buon fine settimana, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E prima di passare al prossimo argomento, torneremo sul meteo e su come stanno andando le cose, parleremo anche di dissesto idrogeologico. C'è un aggiornamento che arriva da Napoli, perché è in corso un corteo organizzato da tempo per protestare contro lo sblocca Italia e il commissariamento di Bagnoli. Ebbene, sono in corso scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. A quanto si è appreso, sono stati lanciati dei petardi, sono state usate delle mazze contro gli uomini delle forze dell'ordine, che hanno reagito lanciando lacrimogeni. Naturalmente aggiornamenti appena ne avremo. Andrea Pieralice, meteorologo del Dipartimento della Protezione Civile, buongiorno e benvenuto. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Come vanno le cose, come va questa perturbazione, a che livelli di allerta siamo? Allora, il nord-ovest va sicuramente meglio, infatti i nostri ascoltatori ci ascoltano appunto da Piemonte, da Val d'Aosta, Lombardia, Liguria, nonché dalla Sardegna, avranno cieli al più poco nuvolosi, mentre è tutt'altra storia sul resto d'Italia. Abbiamo ancora delle precipitazioni in atto sul Friuli Venezia Giulia, sul centro, ma soprattutto è il sud in queste ore a vedere la maggior parte delle precipitazioni. Parliamo di Puglia, Calabria e Sicilia soprattutto, con annessa ventilazione piuttosto consistente. Abbiamo sì ancora delle criticità dovute sicuramente alle precipitazioni di oggi, però anche a quelle pregresse che si sono avute nel corso delle scorse ore e della giornata di ieri. Quindi lei dice l'accumularsi di piogge su piogge può generare problemi. Esatto, naturalmente. Anche questo, le criticità e insomma i colori dei quali ormai penso sappiamo riconoscerli, ovvero l'arancione e il rosso, non sono dovuti soltanto alle precipitazioni che sono in atto, ma anche alla somma delle precipitazioni in atto con quelle che si sono avute magari nelle ore precedenti. Devo dirle, Pieralice, che su questa cosa dei colori non è che ci abbiamo capito molto, nel senso che il rosso, il viola, l'arancione ci dà una scansione allora, abbastanza realtà, precisa, soprattutto sì, delle più alte. Di essere breve, anche se chiaramente il discorso andrebbe approfondito. Allora, ci sono quattro colori: il verde vuol dire assenza di criticità, il giallo è un primo livello di attenzione, poi abbiamo l'arancione e il rosso, che sono i due livelli massimi, chiaramente il rosso è l'ultimo, il viola in realtà non esiste come livello, è stato lanciato ieri in maniera inappropriata. Il rosso è il massimo livello, è quello dell'allarme, dovuto sicuramente, come dicevo, alle piogge cadute, ma a quelle previste e alla somma di quelle previste con quelle cadute. Grazie Andrea Pieralice, meteorologo del Dipartimento della Protezione Civile, una buona giornata e un buon lavoro che tanto avete da fare in questi giorni. E noi continuiamo a parlare di tutto questo, ma parliamo di dissesto idrogeologico. A questo è dedicata l'inchiesta oggi di Daniele Biacchessi. L'Italia è una repubblica una e indivisibile, ma fondata sulle alluvioni, le frane, gli smottamenti e lo scaricabarile. A Carrara il torrente Carrione viene chiamato il fiumetto. D'estate scorre pigro, con minuscoli rigagnoli d'acqua, un alveo così secco che d'estate i bambini del centro storico ci giocano perfino dentro a pallone. Ma in autunno e in primavera il fiumetto diventa grande come il Po. Il Carrione è uno dei tanti casi italiani di ambiente negato. Pensate, nel tempo è esondato un numero impressionante di volte: 1936, 1952, 1982, 85, 1992, 96, 2003 alla vigilia di Natale del 2009, due volte nel 2010, tre volte nel 2012, nel 2013 e quest'anno a luglio e due giorni fa. I 20 chilometri del Carrione fanno una serpentina dalle Alpi Apuane al mare, attraverso 140 cave di marmo che alla fine scaricano e tappano il cosiddetto fiumetto. Quando piove, l'alveo del Carrione diventa una gigantesca vasca di acqua e di polvere di marmo che inonda ogni cosa. Ci sono voluti 30 anni per limitare lo sversamento della marmettola, cioè la polvere di scarto che aveva dato al fiume un colore bianco latte che aveva fatto sparire ogni forma di vita, topi compresi. I nuovi lavori iniziati nel 2007 non sono certo dei gioiellini. Nel 2011 lo scavo in profondità dell'alveo nel centro storico venne interrotto per 10 mesi. La ditta appaltatrice aveva fatto crollare un edificio sulle sponde, contratto rescisso, richiesta danni al comune, corsi, ricorsi, contro ricorsi, il sottopasso della ferrovia, 2,5 milioni di spesa, viene ultimato nell'ottobre del 2012. lo hanno progettato nel punto più basso della zona industriale, in una conca dove confluiscono le acque piovane del Carione. La seconda alluvione del 2012 ha fatto crollare il nuovo rialzamento dell'argine sinistro del torrente proprio all'altezza del quartiere di Avenza, il più grande popolato di Carrara. L'altro ieri ha ceduto l'altro argine, in realtà un muro di contenimento appoggiato alla sponda, finanziato con i soldi della regione. Tutti lo sanno, i cittadini, le autorità, la magistratura. E puntuale dopo ogni esondazione la pericolosità del Carione ritorna di attualità. E puntuale pochi giorni dopo il fiumetto ritorna a scorrere nel silenzio. Quanti torrenti come il Carione scorrono tranquilli, apparentemente innocui in Italia? Così l'inchiesta di Daniele Biacchessi di oggi. Noi chiudiamo facendo degli auguri, gli auguri a Gigi Riva, il celebre attaccante del Cagliari e della Nazionale, che compie 70 anni, nato a Leggiuno, provincia di Varese. Riva ha giocato con la maglia rosso-blu fino al 76, con 374 presenze e 207 gol, vincendo uno scudetto nel 70. In Nazionale ha disputato 42 partite, segnando 35 reti, record ancora imbattuto. Detto anche rombo di tuono, viene ricordato anche per aver detto no alla Juventus, preferendo restare in Sardegna, periferia del grande calcio. Su questa scelta sentiamo proprio Riva, intervistato da Dario Ceccarelli. Comunque sono orgoglioso di quella scelta, perché io ero arrivato qui in Sardegna da ragazzino, la Sardegna mi ha cresciuto, Squadra era un'ottima squadra, riuscivo a togliermi le mie soddisfazioni a livello internazionale giocando con la Nazionale, diventando un giocatore importante nella Nazionale. Non me la sono sentita di abbandonare una regione che viveva di questa squadra e che per la prima volta nella vita si stava togliendo qualche rivincita nei confronti di quello che è sempre stato l'atteggiamento di tutto il paese nel confronto della Sardegna, considerati sempre pecorai e banditi. Invece non è per niente così, quindi io ero e sono tuttora legato a questa regione, perché mi ha dato una casa, mi ha dato simpatia, mi ha dato stima, mi ha dato affetto, e la stessa cosa che pensavo allora la penso adesso. I miei rifiuti sono dovuti soprattutto al legame che avevo con la Sardegna. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, siamo nel momento in cui si dibatte politicamente post sconfitta democratica. Oggi Barack Obama riceve la leadership repubblicana alla Casa Bianca, si cercherà di impostare un dialogo per governare insieme, soprattutto, credo, spero, immagino, in materia di accordi commerciali. Nel fine settimana Obama andrà a Pechino per il vertice dell'APEC e parlerà proprio di queste tematiche, lo ha annunciato. Ma vi racconterò da lì la settimana prossima, prima da Pechino, poi da Brisbane in Australia, al seguito del Presidente, dei più recenti sviluppi sia interni che internazionali dal punto di vista economico e politico. Oggi, venerdì, vorrei soffermarmi, come faccio spesso, su tematiche culturali. And this is what Michelangelo and I have in common. We come from a city under the Alps in Italy called Torino. Ecco, quello che avete sentito è un dibattito per la presentazione del libro in inglese The Voice of Pistoletto, scritto dal nostro grande artista, grande rappresentante dell'arte povera, con lo scrittore italiano Alain Elkann. Devo dire, è stato un dibattito molto interessante. Ed è stato un dibattito che mi ha portato a riflettere sulla cultura italiana in America e sul mercato, diciamo, della letteratura in America, che qui continua ad essere molto attivo, mentre da noi ci sono ovvie difficoltà. Per la nostra cultura un grande punto di riferimento in America, per esempio, è Primo Levi. Durante una mia visita a un college a Washington, appena la settimana scorsa, uno dei temi assegnati agli studenti riguardava proprio il libro Se questo è un uomo di Primo Levi. Sia in America che in Europa, sempre in tema letterario, sono state polemiche attorno